effect. Come forte fortuna fotte gli stronzi. Forse forse ficco fighe fottendo le vostre fonti. Falla falla che è un affanno che mi affanna tra la folla. Giro caltra filtri e fogli strappando pure la colla. E fa foto il futuro fino a farvi in testa un foro. Fotografo finta fine fuoco accendo una Marlboro. Sono F come sfiga senza S per le folle o frasi spesse. Fatti dare tre compresse ma farlocco. Hai preso anche le ferie a Ferragosto e ti hanno fatto l'automobile col ferro di nascosto. Nel bosco c'è un folletto con un faro un po' furtivo. Grida fuoco a fette MC con l'alfabeto farfallino. Fra, fatti là, faccio la fatalità. Spingi 50 come lifting, figli dell'ambiguità. Faccio fuori costi suoni nelle orecchie dei buffoni. Scrivo F, vi do schiaffi sulle facce costi suoni. Sono F, come la figa che voi vorreste. Come le rime spesse, F come le feste. F sopra le teste, F fino alla fine. F come fulmine, fottendo ste letterine. Sono F, come la figa che voi vorreste. Come le rime spesse, F come le feste. F sopra le teste, F fino alla fine. F come fanculo, sta tecnica fa morire. E sono F come fatti i cazzi tuoi tra i b-boy. Sputi fluidi fluorescenti dalle vele con fanboy. Guardi friend con i frame, ma intanto non si discute. Torni a casa tu m'hai fatto come in faccia Freddy Krueger. Fuck, fatti là, se non sai come si fa. Taglio testi filiforme finché dorme la città. Tu non mi togli da sti fogli, non togli la mia fazione. Overkill, manda a fanculo fantocci senza finzione. La tua cougar fottuta, poi c'ha una storia da paura. Ti sei fatto il ferro fiero senza farci la fattura. Ora giri per imperi alla festa della fondura. Mr. Buck presenta suoni, campioni, filmo cultura. Fette pure alla mia pure, sono figlio del mattino. Fin dal primo giorno stiro rime sopra questo film. Fett, fatto di fatti, fotto ste fallite. Flash e test crash, le slash sono finite. E sono F, come la figa che voi vorreste. Come le rime spesse, F come le feste. F sopra le teste, F fino alla fine. F come fulmine, fottendo ste letterine. Sono F, come la figa che voi vorreste. Come le rime spesse, F come le feste. F sopra le teste, F fino alla fine. F come fanculo, sta tecnica fa morire. Se ci sono 120 F, mi senti il pezzo. Le collezioni tutte, le fai sentire i tuoi amici e gli dici questo è Fett MC. Questo è Lil Buck, l'anello, sapone Imperia 2010.